Bro, chi no on fake bitch, quelle le ho lasciate a scuola, ho la playlist con me tra me e me, me tra me e i miei. Non ho una fila calma, bro, mamma che mi chiama, chiama, chiama. Non più Xanax, non più casa, o strada, o brada. Yeah, bitch, non sto più con i miei fantasmi. Giravo e non cascavo i drammi. Yeah, chiamo la mia lady, stand by, perché mi aiuta a scordarli. Perché non so di che parli, perché se mali sali di follow. Ma smetti di followarti un po' come loro. Ehi, cringe e distanti e tu non sei loro. Voglio bere ma la voce mi va via. Alla scuola preferivo casa mia. Uscivo solo se non prendevo tre. Cazzo te ne fai della filosofia. Oh, oh, oh, voglia di perdermi sopra l'ora.